Provate a ragionare in questo modo. Quanti minuti ci sono in un'ora? E quanti secondi ci sono in un minuto?